RadioTube Social Network. Eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube Social Network, dopo l'ora di RadioTube Social Village. Nella prima ora abbiamo parlato di, faccio il riepilogo, ma soprattutto perché se vi foste persi la prima ora potete andarla a recuperare in podcast. Allora, abbiamo parlato del Festival di Sanremo, ma non abbiamo commentato il cast, no, abbiamo chiamato il nostro amico Eddie Anselmi per fare tutte le statistiche, tutti i record, le cose che solo lui sa, perché fa dei conti assurdi, il titolo ripetuto più volte, il nome di battesimo più ripetuto nei titoli, insomma, se volete andarvelo a riascoltare ci sono un sacco di chicche. È stato con noi, ci siamo collegati con Cesare Cremonini, che in poche settimane è già alla quinta ristampa del suo Let Them Talk, della sua autobiografia. E poi abbiamo parlato con Zucchero, perché ha presentato la sua deluxe edition di Doc, del suo album dell'anno scorso. E poi è stata con noi Wally Giambelli, abbiamo parlato di queste teche interessantissime. Io dico teche per brevità, insomma è un sito in cui ci sono non solo i filmati d'epoca, c'è anche il documentario, ci sono un sacco di documenti preziosissimi che riguardano la storia di Antenna 3 Lombardia, una storia molto importante per la storia appunto della televisione italiana, ma anche del costume, gli esordi di tante personalità che fanno parte dello spettacolo di oggi. 349-238-6666, numero per SM MS WhatsApp, chiocciola Marta Cagnola per i miei social, che sono Twitter e Instagram. Abbiamo come sempre un co-conduttore d'eccezione ed è tornato con noi appena finito TV Talk, Sebastiano Pucciarelli. Ciao Sebastiano. Ciao Marta e ciao a tutti, bello essere con voi. Ah, che bello, senti, sono come se tu fossi qua, anzi, noi siamo a distanza ma torneremo in presenza. Sebastiano, intanto... potenti mezzi. Ecco, certo, potenti mezzi. Intanto ti chiedo un commento su questa cosa. Le teche delle televisioni private, sarebbe bello averle online come ha fatto Antenna 3 con questo viaperbusto15.it, viaperbusto, fatemelo dire bene perché sta per Busto Arsizio, è proprio l'indirizzo in cui si trovava, viaperbusto15.it. Busto15.it. Sono una miniera, Sebastiano. Lo sono, sarebbe splendido averle, perché se ci pensiamo dagli anni 80, diciamo dalla moltiplicazione dei canali, da quando è finito il monopolio Rai, comunque tutto il patrimonio di informazione, spettacolo, magari non sempre di ottimo gusto, però anche quelli sono documenti, quindi sono anche la storia, la carta d'identità del paese, del gusto del paese, quindi ormai sappiamo che anche gli storici li usano come hanno usato il cinema, usano anche le TV e le TV private come fonti, quindi sono assolutamente interessantissime, divertentissime e fondamentali. Tu sei piemontese, hai dei ricordi tuoi, sì, di questo periodo, del periodo delle TV locali? Più che ricordi ho un legame, come dire, biografico. Io sono nato a Biella, dove è nata la prima TV libera all'epoca, perché sai... certo, Peppo Sacchi, che credo non ci sia più, l'avevo intervistato 20 anni fa forse per un progetto universitario, e sono stati i primi a inizio, metà anni 70, anzi grazie a loro poi ci fu una sentenza che spaccò, che ruppe il monopolio Rai. Berlusconi studiò il modello Telebiella, che dava anche videocassette ad altre reti locali che stavano nascendo. Lì è interessante come passaggio storico, anche perché in qualche modo si passò da un modello molto vicino alle radio libere, quindi erano televisioni libere, un po' Tupamaros del video li chiamavano, al modello poi commerciale, quindi un po' qualcosa poi è cambiato la natura, forse era l'unico sostenibile, di sicuro certe tensioni anche ideali andarono un po' perdute, ecco. Devo dire che io mi diverto a cercare in rete, anche su YouTube, spezzoni di vecchia TV, mi guardo le vecchie pubblicità, qualche settimana abbiamo parlato degli annunci, delle annunciatrici, insomma è sempre carino. Sei sempre la solita carino. Feticista, sì, Marta Cagnola. Sì, la solita feticista. Beh, ma a volte sai cosa c'è? Si pensa un po' al passato e si recupera un po' il passato per non pensare al presente, Oh yeah. Ecco, allora dai, ti faccio un po' ragionare su quello che è successo ieri sera, e ovviamente ne parleremo dal punto di vista della comunicazione perché è molto interessante. Ecco qua. Le misure messe in campo dal governo e il sistema zone hanno funzionato, tant'è che abbiamo riportato sotto controllo la curva del contagio grazie alla responsabilità dei cittadini. La situazione però rimane difficile. Dobbiamo quindi intervenire. E vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Allora, ieri sera il Presidente del Consiglio che ha presentato questo decreto legge, non DPCM, questa volta non è un DPCM, per le nuove misure per Natale. Io personalmente avrei preferito non un hanno funzionato ma un vi avevamo detto che dovevamo fare i bravi per salvare il Natale, non ci siamo riusciti né noi né voi tutti insieme, abbiate pazienza, dobbiamo fare un altro sacrificio. Avrei preferito comunicativamente una roba un po' più tra adulti, però quello è gusto mio. Vorrei invece farti commentare questa scelta del tra poco la conferenza stampa che va dopo l'anteprima di The Voice Senior, cioè telegiornale, finisce il telegiornale, tutti i soliti ignoti di Amadeus, scopriamo il parente misterioso mentre la gente lì a aspettare, finito certo. Il parente misterioso, anteprima di The Voice Senior, è un caso oppure hanno cercato di fare l'effetto guarda. Stiamo aspettando? Non lo so se è un caso, però è vero che da un lato negli ultimi mesi siamo stati abituati, come dire, ad aspettarci queste comunicazioni per una certa ora e poi a vederle più tardi. Nell'ultimissimo periodo in realtà erano abbastanza chirurgiche alle 20:20, che è un orario strategico perché sappiamo che stanno finendo i TG delle 20, ma si riesce ancora a intercettarli se si fanno comunicazioni brevi come ha fatto Conte le ultime volte, anche ieri, di 5, 6, 7 minuti. E poi soprattutto è la fascia di massimo ascolto in assoluto televisivo delle 24 ore, il cosiddetto access prime time, cioè la fascia che precede il prime time, non a caso, se ci fate caso, è sempre quella più zeppa di pubblicità, perché appunto si vendono meglio i numeri, quei numeri di quelle teste, di quel pubblico agli inserzionisti. Guarda, da quello che sappiamo, in realtà anche dall'Alleanza battuto verso quell'ora lì, in realtà stavano ancora finendo le ultime riunioni, quindi probabilmente era fisiologicamente impossibile farla alle 20:20 come inizialmente si aspettava. È anche vero però, se vogliamo essere, non dico malpensanti, ma provare a cercare di capire un po' la comunicazione, che Casalino, cioè chi si occupa della comunicazione del Premier, è molto attento alla programmazione televisiva. Ecco. Quella è la sua genesi, se non altro pubblica. E quindi in qualche modo ha sempre calcolato anche questa cosa nei limiti del possibile, perché poi ci sono anche delle contingenze, sai, finisci una riunione, il discorso poi lo devi scrivere, lo devi preparare, lo devi mettere su un gobbo o su un foglio per farlo leggere senza sbavature, senza gaffe, che in questi casi sarebbero davvero nefaste. Su quello che dicevi tu prima, non lo so, guarda, io sto vedendo anche gli altri leader europei, non so, anche Johnson, ne abbiamo parlato oggi a TV Talk con Barbara Serra, anche lì ci sono molte oscillazioni, si fa molta fatica a dire abbiamo sbagliato, cosa che le figure politiche fanno molto difficilmente, quindi è più facile farlo se sei un re. È più facile farlo se sei un re, come ha fatto il re di Svezia. Forse sì, anche perché sono monarchie costituzionali che tutto sommato rischiano meno, ecco, rispetto a presidenti, primi ministri, eccetera. Allora, tu hai detto la genesi di Rocco Casalino, ma mi verrebbe anche da dire la genesi e la nemesi, perché ieri sera invece il Grande Fratello è partito lo stesso. Televisivamente come funziona, cioè cosa dovevano fare? Alla fine hanno aspettato, ma cos'è secondo te una cosa, anche perché TV commerciale, gli inserzionisti, dopotutto ieri sera gli ascolti di The Voice Senior comunque hanno avuto un contraccolpo per il fatto che la trasmissione è partita mezz'ora dopo? Sì, anche se non particolarmente, comunque Conte su Rai 1 mi sembra abbia fatto un 20% di share più o meno, quindi più o meno in linea con gli ascolti di The Voice, anzi se vogliamo qualcosina in più. Non lo so cosa, guarda, io penso che in realtà ormai le presunte reti unificate abbiano senso fino a un certo punto, nel senso che i canali sono tantissimi e gli stessi gruppi editoriali, sia Rai che Mediaset che Sky, hanno anche i loro canali all news, quindi come dire la continuità comunicativa sulle breaking news c'è anche lì, va benissimo dare risalto anche su un canale generalista quando si ha a disposizione un contenitore o comunque si può interrompere la programmazione eccetera. Non lo so, da Grande Fratello ormai non me lo aspetto più, ecco, da Canale 5 che ormai è una rete quasi all reality non mi aspetto che diventi improvvisamente un all news, al massimo lo potrebbe fare Rete 4, confesso che non lo so se l'ha fatto Rete 4 ieri sera, ci deve essere Nuzzi, no, con Quarto Grado, controlleremo. Tra l'altro Io infatti una cosa che noto sempre, io preferisco guardare le conferenze stampa su Rai News 24 perché al discorso segue anche la parte delle domande, che poi quella poi un po' più interessante, e quindi questa è la particolarità. Effettivamente dobbiamo ricordarci che le All News ci sono e hanno questo ruolo. Mi segnala Alessandro Schirano che in questo momento la conferenza stampa del Presidente del Consiglio è anche il numero uno sulle tendenze di YouTube. Quindi non solo piccolo schermo. Che l'ho vista in leggera differita, perché aspetta, volevo vedere la finale di The Mandalorian su Disney Plus. Quindi ho guardato quella, nel frattempo mi arrivavano notifiche che Conte aveva iniziato a parlare, ho detto sai che c'è, me la recupero tra un quarto d'ora su YouTube perché devo vedere come va a finire The Mandalorian. Io invece aspettavo The Voice Senior perché sai che io sono una grande appassionata. Allora, brava. Io non so se Alessandro abbiamo i NIR. Allora, questa settimana per lanciare le nostre pause abbiamo scelto uno dei video in tendenza di YouTube, che è quello dei Nirchiop. Ci ritroviamo tra poco. L'assistente che ti scalda il water, ascolta la tua fidanzata, ti va a prendere le pizze. Hai un amico single? Regalagli una fidanzata regalo. Alla fidanzata regalo non piace il tuo amico? Nessun problema, abbiamo il fidanzato regalo per la tua fidanzata finta. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro Radio Tube. Sto perdendo la voce perché si capisce che è l'ultima puntata in diretta del 2020. No, sto perdendo la voce perché stamattina ho urlato contro i miei vicini di casa, lo devo confessare, per questo sto perdendo la voce. Allora, stiamo parlando con il nostro conduttore d'eccezione di oggi, direttamente da TV Talk, proprio alla fine della trasmissione l'abbiamo colto, Sebastiano Pucciarelli. Ancora ciao Sebastiano. Marta, io però voglio sapere a questo punto perché strillare contro i vicini, stai diventando la vecchietta dei mappi. Sì, sto diventando. Cosa ti hanno fatto? No, hanno cominciato. Si sono messi a fare lavori in casa senza avvertirmi. Io stavo preparando la trasmissione, hanno cominciato a trapanare, ma io dopo mezz'ora ho cominciato a urlare. Ma comunque non è necessario dirlo alla radio perché lo sa tutta la via quanto ho urlato stamattina. Chi vive a Milano se ne è accorto. Sì, l'hanno sentito tutti e quindi non ho più voce sul serio. Mamma mia, veramente. Non lo so, sto diventando un po' fumina. Allora, un'altra cosa che vorrei segnalarti di tutto quello che è andato in onda e in rete in questo periodo, in realtà è una cosa che viene dagli Stati Uniti. Ascoltiamone un pezzettino. Great job, dice. Allora, c'è qualcuno che si è fatto fare uno shot, un'iniezione. Mike Pence, vaccino in diretta TV. Allora, che ne pensi del vaccino anti-Covid in diretta TV? Ma ne penso che ce lo dobbiamo aspettare, forse dobbiamo anche auspicarcelo. Pence forse è il primo big politico, ma del resto l'uso che è stato fatto anche settimana scorsa delle immagini in Inghilterra dei signori anziani, il secondo scelto con un nome evocativo, William non a caso. Shakespeare, è vero? William Shakespeare, cioè ancora le vecchie mire, come dire, egemoniche del Regno Britannico si fanno sentire, ma è anche giusto così. Avete sentito anche qua la quantità di click fotografici che ascoltavamo, e stessa cosa quando hanno vaccinato in Inghilterra, ma stessa cosa hanno fatto in Russia a favore di telecamera. Cioè, dobbiamo aspettarci, o forse dobbiamo anche auspicarcelo. Lì c'era un set allestito con una certa cura alla Casa Bianca, questi schermi dietro Pence con scritto safe and effective, quindi sicuro ed efficace. Anche la moglie è stata, Karen, anche lei è stata vaccinata. Sì, sì. Sembrava tutto sommato la pubblicità di, no, di quelle vecchie siringhe, quelle pubblicità di 80. Già fatto. esatto, quella roba lì. No, devo dire che sorrido perché siccome io invece ho il terrore degli aghi, e quando ho fatto l'anti-influenzale per me è stato, io veramente purtroppo ho questo terrore, ecco, per me sarebbe molto molto problematico farlo così. Però pubblicamente ti vaccinerai comunque, vero? Diciamolo. Ma io mi farei vaccinare come in Pulp Fiction, cioè anche proprio tipo non ne posso talmente più che mi metterei contro un muro subito. E farei lanciare la siringa per prendermi al volo. No, no, guarda, vai, proprio vai. Non ne posso più, me li farei fare tutti anche a caso, così, roulette russa. Allora, chissà chi sarà il primo nella nostra televisione. No, allora, vediamo se sarà tipo Di Maio da Vespa. Sai che Vespa è sempre stato in prima linea a farsi vaccinare lui in quello studio, quindi io mi aspetto loro, poi partirà il toto infatti vaccinazione, anche questo, vedremo quale se ci sarà la prima se ci pubblica sarà. Mediatica. Che poi anche lì ti chiedo questa riflessione. Ci sono quelli che scrivono: ah, io non mi vaccinerei mai, voglio vederli questi che si vaccinano in pubblico. E dopo qualcuno che risponde: ah, scherzi, faranno finta, metteranno dell'acqua distillata. E poi invece Salvini che ha detto che non si faccia la corsa a farsi vaccinare da parte dei politici per farsi vedere, perché a quel punto tu togli il vaccino a chi ne ha davvero bisogno. Insomma, non se ne esce. Vabbè, sì, poi va bene. Se lui è sempre così schivo, no, a mostrarsi in pubblico che fa cose, no? Quindi va bene, sì. Ha detto che pulpito, a Natale però, va a servire alla mensa dei poveri, mi pare, per uscire. Vabbè, ma lui si sa che è abbastanza. Sì, vabbè, siamo dalle parti del, come dire, lo faccio per dirlo. Vabbè, comunque, non voglio neanche scadere nel commento politico che non mi interessa. dimmi. No, guarda, eccoci. Ecco, anzi, mi taccio su questo, così evitiamo ulteriori commenti di comunicazione politica. Parliamo di altre liti. Hai citato Bruno Vespa. Questa settimana Bruno Vespa, che io ricordo come così, insomma, abbastanza calmo, ma si è arrabbiato parecchio. Io sono rimasta lì. Sentiamo cosa è successo, Bruno Vespa. Buonasera al pubblico di Porta a Porta, con il quale per una volta devo scusarmi perché Porta a Porta, come voi sapete, spesso è in onda molto tardi, il pubblico un pochino se ne lamenta, ma ci sono programmi più importanti del nostro che insomma finiscono, e ce ne facciamo una ragione. Il programma che ci ha preceduto stasera deve essere di importanza eccezionale, perché ci ha spinto fino a quest'ora, e quindi io vi chiedo scusa se andiamo in onda in un'ora così tarda da essere perfino inconsueta per noi che andiamo in onda sempre tardi, e abbiate pazienza. No, Bruno, io allora, lo sai. Nessuno mette Bruno in un angolo. D'ecco, io tra l'altro l'ho anche incontrato proprio da voi a TV Talk, sono stata contenta di incontrarlo, anche perché poi così gli ho ricordato, che è stato lui, allora lo dico. Dopo che ho finito la scuola di giornalismo ho mandato decine di curricula, lui è stato l'unico gentile a rispondermi. Vuol dire che questa è una cosa che secondo me qualsiasi gentleman Bruno. Sì, cioè qualsiasi mestiere una persona faccia, è bello sapere che se tu mandi un curriculum una persona ti risponde. Però stavolta Bruno no, stavolta era davvero importante, scusa, dai, cosa diciamo? C'era la sera in cui venivano svelati i big di Sanremo. Lo so che tu hai delle priorità, tutto sommato ce li ho anch'io. Io penso che a volte, tutto sommato, si potrebbero anche prevedere queste cose, e non è necessaria una seconda serata, che ormai tanto è terza se non quarta, perché credo fosse più o meno l'una di notte. Anch'io ho guardato tutto Ama Sanremo fino alla fine, è finito all'una meno cinque, tipo una cosa simile, quindi ci ha già dato un assaggio assolutamente in pillole rispetto a quello che sarà Sanremo dal 2 al 6 marzo, se non sbaglio, con 26 partecipanti. L'anno scorso erano 20 e facevamo le 2 di notte, quindi abbiamo avuto solo un assaggio. Io penso, se fossi io, e palinsestierei, non voglio fare il lavoro di nessuno, che in quei casi lì sarebbe facile prevedere che si finisce molto tardi. Quella sera lì il programma di seconda barra terza serata potrebbe anche non andare in onda. Che senso ha mandarlo in onda dall'1 alle 2 e mezza, 3 di notte? Tutto sommato, però, rispetto ai commenti di Bruno Vespa, abbiamo visto anche gente in passato che se l'è presa molto di più. Lui si limita, come dire, con un tono tutto sommato abbastanza pacato, a dire: ci sono programmi più importanti, questo doveva essere di importanza eccezionale per Marta Cagnola, per me per e per molti altri lo è, diciamolo chiaramente, televisivamente lo è, ma lo è anche per la Rai, perché Bruno Vespa lo sa bene quanto fa incassare Sanremo, non tanto ama Sanremo, quanto Sanremo il festival alla RAI, e quindi poi paga gli stipendi di tutti, Bruno Vespa compreso. Allora, arrivato un messaggio al 349-238-6666, questa antipatia per Salvini è un po' stufato, voi altri giornalisti. No, ma in realtà adesso avevamo appena finito... Vedi perché bisogna tacersi, erano commenti sulla comunicazione. Ecco, avevamo appena finito di criticare Conte, e adesso, ma noi li critichiamo tutti, adesso abbiamo criticato anche Bruno Vespa, esatto, non è un problema. Esatto, par condicio della critica, finché ci è consentita. Dai. No, appunto, poi parlando di comunicazione, effettivamente... È inevitabile, dai, bisogna un po' criticare un po', no, alcune scelte. Analizzare, comprendere, questo è il dovere della critica e del giornalismo. Allora, Sanremo quest'anno, il Sanremo del 2020 sembra di 7-8 anni fa. Cioè, a me sembra che siano passati 100 anni. L'abbiamo citata nella prima ora, la lite... Bugo, Morgan, dove Bugo? Che bello, si torna alla normalità. La lite Bugo Morgan, ecco, no? Sembra davvero l'ultimo barlume di normalità. Ecco. Io accolgo queste cose come una rassicurazione, mi sembra tutto normale. E allora, per far tornare tutto normale, ce l'abbiamo Morgan che si è arrabbiato di nuovo, eccolo. Sono venuto a mie spese tutte queste settimane a fare questa cosa che anche sinceramente, cioè, va bene, però fare il giurato non è che proprio mi fa impazzire, perché io sto sul palco, non sto a fare l'opinionista, ma detto questo, dopo non mi prendi. Allora dico, ma che cazzo è? Ma come cazzo ti permette? Allora, parolaccia a parte, vabbè, insomma, Radio 24 qualcun altro si sente, quindi non ci sono problemi. Morgan si è arrabbiato perché non è stato preso nel cast di Sanremo. E siccome si è arrabbiato e ha fatto una scenata, tra l'altro io so che il no l'aveva ricevuto qualche giorno prima, quindi insomma aveva avuto tutto il tempo per farsi passare questa rabbia. No, invece no, ma vabbè, ma questo non è un problema. Cosa è successo? Evidentemente ha fatto questa scenata, ma ha anche postato sui suoi social gli screenshot dei messaggi che ha mandato ad Amadeus. E Amadeus l'ha estromesso dalla giuria di Sanremo Giovani, anche perché, allora, noi che un po' li sapevamo già i nomi del festival perché avevamo fatto delle indagini, sapevamo che poteva esserci Bugo tra i big. Sarebbe stato un altro momento, un altro bel momento, che, cioè, nel momento, cioè annunciare Bugo tra i big e Morgan non preso, insomma... Questo è stato troppo per la psiche di Morgan. Ma a me ha fatto molto ridere che lui dice sono venuto a mie spese. Ma a parte che non ci credo, perché per fare il giurato da Sanremo un cachet ce l'ha avuto, ne sono certo, non lo so, ma lo do per certo. Probabilmente sta succedendo come succedeva con X Factor, che lui il suo cachet non riesce a vederlo, perché avendolo sappiamo, ma sì, non, diciamo, è, non è un gossip. Siccome ha avuto dei problemi dal punto di vista, insomma, con l'agenzia delle entrate finanziario, sì. Esatto, Sky aveva spiegato che non è questo, che non vuol dire che non ti paghino, cioè, ecco, vuol dire che quei soldi lì li stai dando a chi li devi, ecco, ma anche qua non voglio entrare nel 740 di Morgan. No, ma certo, però singolare il fatto che su Rai 1 andasse in onda una cosa e su Instagram uno psicodramma completamente diverso. Certo, e ormai la lotta si fa con la controprogrammazione, no? Certo. Dire, non solo vi do la mia versione dei fatti, ma ve la do contro quella iniziativa, quel programma che mi ha fatto fuori. A me sembra anche un po', vabbè, puerile, se vuoi un po' infantile, pensare che siccome facevo il giudice in un programma che in qualche modo è di avviamento e propedeutica a Sanremo, allora automaticamente mi dovevi prendere a Sanremo, allora quindi doveva esserci anche Barbarossa, doveva esserci anche Pelù e doveva esserci anche la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che erano gli altri tre giudici. Cioè, certo, che vuol dire. Poi capisco però che nella dinamica classica di Morgan, vedere poi invece Bugo preso, ecco, questo è un affronto che non poteva tollerare. Che succede 2.0? E in effetti però io capisco. Che succede 2.0? Video più visto su YouTube nel 2020, e questa cosa, insomma, ci fa capire che era stato un grosso scoop. Effettivamente, povera Amadeus, che cosa doveva fare? Cioè, io non lo so, non era in una situazione facile. E quindi, vabbè, vedremo. Ma poi benissimo anche la polemica preventiva, lo ma sappiamo, certo, lo certo. Racconti tu da anni a Sanremo, e sappiamo quanto queste cose servono a montare la panna. Speriamo che tutto questo poi confluisca davvero in un Sanremo che che ha luogo nelle date che si prevedono senza particolari problemi. Sarà complicata, boh, vedremo come riusciranno. Intanto arriva al 3 4 2 3 6 6 6, già rido. Buon pomeriggio, se volete sentire qualcuno veramente arrabbiato perché la propria trasmissione inizia in ritardo, fateci ascoltare Cruciani che si arrabbia con Barisoni perché c'è Daniela la zanzara. Allora, vedi che anche voi ce l'avete queste dinamiche. Io non posso parlare perché Giuseppe è un collega al quale voglio molto bene, Sebastiano pure, ed è pure il mio vice direttore, però ti dirò, Alessandro, e questo lo dico tra me e te, non ci sente nessuno, che io so quello che succede anche a microfoni perché noi li sentiamo anche prima che vadano in onda. Alessandro, noi sentiamo anche il resto. Cioè, sapendo quello che dicono a microfoni aperti, non voglio neanche immaginare quello che dicono a microfoni spenti. Forse invece sono molto educati e molto corretti invece, per contrasto. No comment, non credo, no. No comment. No. Ancora in irchio, poi saremo ancora insieme. Fretta, andiamo? Un professionista che sbroglia le cuffie al tuo posto. Ma che cos'è? Un fratello nuovo se il vecchio ti faceva schifo. Farò shopping con te. Ma è perfetto! Ed è pettegolezzi? Io li ascolterò. E ti presenterò tutti i miei amici. Aspetta, i tuoi amici? Pallanuotisti. Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per la nostra ultima mezz'ora di diretta per il 2020, perché poi torniamo in diretta dal 9 di gennaio con le nuove puntate di RadioTube con il nostro co-conduttore d'eccezione Sebastiano Pucciarelli, TV Talk, lo conoscete benissimo. Bentornato Sebastiano. Ciao a tutti. Allora, bello, caro Sebastiano, che bello, in attesa poi di rivederci di persona, anche se noi ogni tanto ci siamo incontrati, anzi, negli studi di Rai 3, quindi insomma vistici. Siamo visti, è anche vero, se da molto da lontano. Sì, da molto lontano, perché per ora purtroppo da molto lontano. Ah, abbiamo parlato di Sanremo, ma ragazzi, ma non c'è solo Sanremo, perché quest'anno c'è un'alternativa. Ce l'abbiamo un audio per l'alternativa. Eccolo qua. Benvenuti al Cecchetto Festival. Senti il flow, frate, che ti spettina. Chi sarà la nuova webstar? Il tipo che rappa o la tipa poetica? Under 33, siamo la nazionale. Se vuoi partecipare, devi solo spaccare. Claudio Cecchetto è il mister, controlla chi schierare. Dimostra le tue skills e arriverai in finale. Vi aspettiamo numerosi e vi lascio il primo indizio. 3, 4, 5 marzo, che lo spettacolo abbia inizio. Allora, io non è che mi tolgo, mi levo il cappello, proprio mi alzo anche in piedi, perché lui è l'uomo che ha avuto le idee più fulminanti, che ha iniziato a fare questo mestiere in questo modo, che ha cambiato sempre, quando c'erano le carte in tavola è arrivato lui e le ha cambiate, ha sempre fatto un grande successo. Benvenuto, anzi bentornato, perché è già stato con noi a RadioTube, Claudio Cecchetto, buonasera! Ciao a tutti, ragazzi, ciao a tutti. Veramente il vero rivoluzionario. Sai cosa stavo cercando, Claudio? Adesso lo trovo, perché una volta l'ho postato su Instagram. Ho ancora un tuo autografo con gli auguri di Natale, che sarà tipo dell'81-82. Ce l'ho ancora, da tanto per farti capire quanto io sono fan di Claudio Cecchetto. Dov'è che ci siamo incontrati? Ci siamo incontrati perché i miei genitori tanti anni fa ti stampavano i dischi in vinile e quindi io ero tutta contenta che potevo così avere questo autografo di Claudio Cecchetto. Claudio, tu hai sempre davvero cambiato le carte in tavola. Quando tutto era in un certo modo, tu sei arrivato e hai deciso di rivoluzionare. E anche questa volta hai deciso di fare qualcosa di nuovo, di rivoluzionario. Mi racconti cosa succederà negli stessi giorni del Festival di Sanremo? Diciamolo. Beh, allora, diciamo, non è che niente di rivoluzionario. Diciamo che in questo momento il web sta diventando molto importante, quindi è giusto che nasca anche nel web una manifestazione musicale che abbia la mira di diventare altrettanto importante di quelli di Sanremo. Ci vorranno un po' di anni, perché Sanremo per diventare importante così ci hanno messo 70 di anni. Noi iniziamo, quindi non è l'antifestival, non è antagonista, semplicemente si è affianca al Festival di Sanremo. La settimana di Sanremo è sempre stata da 70 anni la settimana dedicata alla musica, quindi è giusto che in questa settimana, magari adesso, visto tutti i media che ci sono a disposizione, adesso ci sia la possibilità di fare anche altri festival, quindi che diventi proprio la settimana non solo di Sanremo, ma la settimana della musica. Beh, è un'idea che mi piace molto. Sebastiano, cosa dici? Beh, Claudio Cecchetto intanto, vabbè, rivoluzionario sempre, però bello aprire anche un'altra porta. Cecchetto un'altra... ha fatti i festival, no? Negli anni 80 almeno un paio, ne ricordo, 81, sì, 82 se non sbaglio. 80, 81 e 82. Sì, ne ho fatti tre. Vedi. E poi nell'82 la sigla, diciamo, è stata la prima sigla di Sanremo, poi ne hanno fatte altre, poi adesso praticamente è scomparsa la sigla, ma comunque la prima sigla ufficiale di Sanremo vera e propria è stato il Gioco di Giuè, perché prima c'erano immagini di fiori, mare, così, e musica classica. E Ravera decise, quando ha sentito il mio Gioco di Giuè, fa: no, tienilo, facciamolo diventare la sigla. Allora, quindi... aspetta, intanto ho bisogno di fare della filologia, perché qua Wikipedia mi dice 1981. Può essere 81? Sì, l'81 è la sigla. Ecco, sì, ecco. La sigla. Ragazzi, allora sì, sono... cioè, era facciamo... il secondo anno. Sono... era il secondo anno che presentavo. Quindi sì, l'anno prossimo sono 40, eh? Ecco, infatti, questo, la, diciamo, la ricorrenza speciale è anche quella, cioè quindi... faccio questo festival web proprio con il quarantennale del Gioco a Jouer. Quindi io mi devo ricordare, barando sull'età, dichiarando di non averne ancora 40, non devo tradirmi? Dicendo che mi ricordo il Gioco a Jouer, perché sennò lì mi tradisco subito. Vabbè. Claudio, mi racconti come ci si può... ma comunque sì, il Gioco a Jouer, per fortuna, non è che ti faccia tradire l'età di chi lo fa, perché te lo insegnano all'asilo, ormai è diventato materia didattica, vero, capito? All'asilo. Vero, le maestre, un po' per pigrizia, così, invece di stare lì ad insegnare le mosse, mettono il disco che c'è già l'istruzione. Quindi devo ringraziare le maestre d'asilo, grazie, perché iniziano i bambini al Gioco a Jouer, poi dopo, vabbè, viene mollato intorno ai 14 anni perché è roba da bambini, e poi dopo i 20 viene recuperato perché è il ricordo dell'adolescenza. Non ti dico dopo i 40, perché io non solo so tutti i passi, perché ai matrimoni, la cosa mi diverte, perché quando io l'ho fatto mi ricordo che c'erano un po' delle critiche musicali, mi dicevano però io preferisco un'altra musica, preferisco le Zeppelin. Anch'io preferisco le Zeppelin, che cosa c'entra? No? Mi facevano queste critiche musicali quando io mi dannavo, perché dicevo: ma ho fatto un gioco, non ho fatto un disco. E infatti, come il Monopoly, ed è per quello che dura così tanto, perché è un gioco, perché non è un disco, è un gioco. Allora, Claudio, io sto guardando il tuo account di Instagram, Claudio Cecchetto, e io qui ho preso l'audio che abbiamo sentito. Mattia Cerrito ti ha mandato Mattia Cerrito è un amico, è un rapper molto bravo, e allora così parlando fa: guarda, mi piacerebbe collaborare, mi metto a disposizione, siccome sa fare molto bene il rap. E quindi ho detto: facciamo così, questa è la prima, perché se ne sta preparando altre. Le istruzioni, capito? Le istruzioni, certo, per l'uso del festival, del Cecchetto Festival, le farà lui, il rap. Quindi il regolamento, per rendere, il regolamento, quando dai il regolamento è sempre un momento un po' palloso, no? Mentre così, con questa formula, diventa anche divertente. Allora, io so che la regola intanto che è under 33. Sì. Con l'eccezione di uno solo, adesso vediamo, okay, uno solo over 33, perché insomma l'età, diciamo, che è l'età giusta per dedicarsi alla musica, poi dopo i 33 cominci già a avere famiglia, lavoro, questo così, e dai meno spazio alla musica, quindi è l'età giusta per sognare. Insomma, io sono sempre stato vicino ai giovani, che poi dopo chiaramente sono diventati quello che sono diventati, quindi under 33. Diciamo che al di là di tutto, cioè anche il Sanremo dell'anno scorso, cioè il fantasma di Claudio Cecchetto, ce ne sono di ventenni, no, ma poi cioè, un festival con Amadeus, con Fiorello, cioè il fatto che tu sia stato sempre accanto ai giovani, Sabrina. Cioè il fatto che tu sia sempre stato accanto ai giovani, poi i giovani crescono, diventano i più grandi e quindi cioè, hai sempre visto giusto. Sì, sì. Comunque ecco, il fatto che ci siano anche quest'anno Amadeus che presenta, ma il Mattatore Fiorello, mi fa piacere, perché sia da una parte che dall'altra siamo sempre noi, sempre i ragazzi di via Massena. È vero. Guarda, sai che l'ho trovata la foto, adesso la posto su Twitter, perché è un autografo dietro il tuo biglietto da visita di via Massena. Ma guarda, guarda, adesso la posto su Twitter. Storici. No, è un vero reperto storico. Allora, facciamo una cosa. Roberta, ce l'abbiamo qualche nota del Gioca Jouer? Dai, che lo balliamo alla radio. Eccolo. C'è? C'è, eccolo. Ecco. Ma io so anche i passi con i piedi, Cioè, non è che... 1, 2, 3, 4. Cioè, sono tutti bravi a fare solo le mosse con le mani. Adesso voi ovviamente vedete, perché io lo sto ballando alla radio, e... perché io lo so ballare benissimo. Claudio, tu ho il testo musica di Claudio Simonetti? Sì, sì, era, diciamo, era amico di amici, ne ho parlato a lui, ho detto volevo fare qualcosa, però una musica molto popolare. Lui in quel momento stava andando veramente forte con Profondo Rosso, cioè è andato forte con Profondo Rosso, e devo dire che non è che mi ha fatto sentire tante cose, mi ha fatto sentire subito questa musica, l'ha centrata in pieno, perché insomma si ispira chiaramente alla tarantella, e io come indicazione gli ho dato gli status quo, whatever you want, quindi è una via di mezzo tra una tarantella e whatever you want. Mi piace tantissimo, è che tu non puoi vederlo, ma qua lo stiamo ballando tutti, anche in regia, qua c'è tutto un Gioca Jouer di gruppo. Allora Claudio, noi ti seguiamo sui social, io sto proprio monitorando il tuo Instagram, Claudio Cecchetto, perché stai postando tutti i video di questi giovani, di queste web music stars che poi si sfideranno nel Festival Web Under 33. Sì. Noi, allora, come dici sul tuo Instagram, stay tuned, noi rimaniamo sintonizzati perché vogliamo stare a scoprire quali altri nuovi talenti scopre Claudio Cecchetto, che è davvero un rivoluzionario. Ti ringrazio. No, l'appuntamento è il 4 gennaio, che dirò i 60, no? C'è una prima lista dei 60, però parteciperanno 24, e questo è un appuntamento che c'è, cioè una lista che darò il 1 febbraio. Quindi il 4 febbraio i 60 nomination, e poi da queste 60 nomination vediamo chi ci sarà in gara. Grazie a Claudio Cecchetto, a presto, grazie Claudio. Ciao Marta, ciao Sebastiano, ciao a tutti. A presto. Ciao, in bocca al lupo. Ciao, pausa, e poi saremo ancora insieme per l'ultimo spicchietto di RadioTube. Tra poco. Che è da sole? Sì, ma se li indossi questi, ti dicono la dimensione del pene dell'uomo che stai guardando. Non di me! Ma il mio telefono? Sì, ma ti ho regalato 4 milioni di followers reali. Quindi adesso sono un influencer? Sì. Grazie! Radio Tube Social Network. Eccoci ancora insieme per appunto l'ultimo spicchietto, ma che peccato come mi sto divertendo, del nostro Radio Tube in diretta con Sebastiano Pucciarelli. Sebastiano, allora aspetta, faccio una segnalazione, ci tengo tantissimo. Abbiamo un breve audio, eccolo qua. Sono Cosimo and the Hot Calls. Io vorrei segnalarvi questo progetto di crowdfunding, infatti è una delle produzioni dal basso, produzionidalbasso.com. L'idea è quella di un concerto dell'anno 1 AD, cioè nel senso di after disease, dopo il coronavirus. Allora, non si possono fare eventi dal vivo. Allora, qui c'è un video che spiega il cioè che un video che mostra questo concerto in streaming. Stringiamoci a corte e non a corte. È una bella diretta streaming, è un bel progetto di crowdfunding in produzione dal basso, perché bisogna sostenere questa, allora ecco qua, sostenere questa iniziativa della Corte dei Miracoli. Io vi segnalo sui miei social tra qualche istante questo crowdfunding del concerto documentario per la Corte dei Miracoli, un video in streaming che è stato girato giovedì 17 dicembre. Prove di resistenza, si tenta comunque di resistere. Il concerto rimane online, quindi potete riscoprirlo. Io adesso vi lascio sui miei social, @MartaCagnola su Twitter e su Instagram, questo link per il cappello virtuale, mi piace, per il crowdfunding, per sostenere questo progetto, questa resistenza del documentario e della Corte dei Miracoli. Davvero in bocca al lupo, perché è un momento difficile per i musicisti, e segnalo questo progetto. Mi piacerebbe segnalarne tanti altri, ma ci sono molto affezionate, come avete sentito sono molto molto molto molto bravi. Allora, caro Sebastiano, abbiamo qui un problema, perché si può fare ancora beneficenza? Cioè, la beneficenza è un problema serissimo. Bisogna farla. Ho paura di intuire dove li vuoi condurre. È difficile. Sospetto, cioè, qualcosa. Si fa. Dimmi tutto. Bisogna fare in silenzio. Bisogna dirlo. Se lo si dice, si spinge gli altri a imitare e quindi a fare beneficenza, oppure ci si fa pubblicità? Perché sto dicendo tutto questo? Perché è successo questa settimana. Vabbè, sentiamo. Ecco cosa è successo questa settimana. Mi sarebbe piaciuto averti al mio fianco in questa bella cosa, piuttosto che stare a dibattere con te su una polemica del cazzo, ma va bene. Quindi mi piacerebbe archiviare la pratica in maniera rapida, in modo da dare spazio alle cose veramente importanti. Facciamo così. Allora, io non sono il duca di Windsor, sono un ragazzo di periferia che fa le cose a suo modo, in maniera poco elegante, e sono anche una persona in totale cattiva fede che fa tutto perché ricerca della pubblicità per se stesso. Diamo per scontato questo, perché tanto tutti gli articoli vertono a qualificarmi in quanto uomo. Una volta archiviata questa pratica e una volta che diamo per assodato che io sia una merda, possiamo andare avanti e parlare delle cose importanti? Allora, Fedez contro Fabio Volo, si riferiva a Fabio Volo, perché cosa è successo? Dopo tutte le varie idee che ha avuto quest'anno, soprattutto con sua moglie, hanno fatto delle cose molto importanti. L'ultima era così un'idea nata su Twitch, che è questa piattaforma della quale abbiamo parlato spesso. Gli utenti, chi lo segue sulla piattaforma, hanno fatto delle donazioni e avrebbero deciso a chi dare queste donazioni. Fedez è andato personalmente a dare queste cifre, qualcuno si è indignato per la macchina sulla quale viaggiava Fedez, e alcuni hanno detto, come ha detto Fabio Volo, insomma, in questo modo in realtà ti fai pubblicità, diciamo così. È difficile trovare un... Io personalmente sono dell'idea che la fai, lo dici e gli altri ti imitano, e quindi va bene così. Se poi uno ha anche un ritorno d'immagine, è comunque... Io sono favorevole. Tu cosa ne pensi, Sebastiano? Ma guarda, io al di là del, come dire, del problema morale, a parte che, vabbè, piccolo inciso personale, quando ho letto Volo contro Fedez, quando ho letto il titolo speravo che fosse Il Volo, il trio musicale, non Fabio beh, Volo. Sarebbe una disfida canora. In un dissing che mollassero il pop operistico e si lanciassero in una battle rap. Però devo dire, a parte che appunto ringrazio in questi casi di fare un programma che si chiama TV Talk e non Social Talk, così non devo occuparmi di queste vicende, ma se vuoi proprio sapere cosa ne penso, allora intanto appunto l'hai detto tu, quella è una piattaforma di live streaming, no? Che ha anche dei programmi ad hoc proprio per generare entrate, quindi a dirla tutta, se uno poi conoscesse davvero, come dire, gli strumenti, i media o i media se preferite la latina, su cui avvengono le cose, bisognerebbe dire che forse quella era più una maratona benefica che è un'ostentazione di beneficenza. Dopodiché è vero che mediatizzando la propria vita come Fedez e Ferragni fanno, questa cosa diventa anche gioco forza, un'ostentazione di beneficenza, di elemosina, quello che volete. Ecco, diciamo che è un modello molto all'americana, no? Cioè negli USA, negli Stati Uniti, la beneficenza si fa e si dice ed è anche un modo sociale in qualche modo di restituire parte di quello che la vita ti ha dato, sono stato fortunato e quindi restituisco. Ecco, non è molto nelle nostre corde, quindi è facile che venga fraintesa, però appunto io ci tengo a sottolineare che secondo me è stata anche molto fraintesa per quello, perché hai detto, ah guarda, questo si è fatto la solita storia su Instagram e fa vedere com'è bravo, com'è bello, che dà dei soldi random a della gente, così, facendosi bello sulla sua bella macchina. È leggermente diversa la cosa, appunto. È una piattaforma di live streaming che prevede appunto che si generino anche entrate se tu fai parte di quel programma partner. E quindi secondo me è un po' alla stregua, ecco, 2.0, quindi con un lato di esibizione diverso, maggiore, però è un po' alla stregua di una maratona benefica. È un po' un Teleton del 2020. Okay. Forse abbiamo spiegato poco in cosa consisteva questa cosa di Twitch. Infatti non tutti avevano capito da che parte arrivassero i soldi, come erano state. Forse bisognava spiegare un po' di più questa maratona che era stata fatta su Twitch. Sebastiano, devo ringraziare tantissimo Sebastiano Pucciarelli per essere stato con noi. Ci vediamo presto e ci sentiamo presto. Buon anno a tutti. A te. Grazie mille a Sebastiano Pucciarelli. Devo ringraziare tantissimo anche Alessandro Schirano in redazione, Roberta Frisani in regia. Noi ci ritroviamo domani mattina come sempre con RadioTube l'intervista. Domattina sono con noi Bunda Bash. Io vi abbraccio, ma tanto ci sentiamo ancora in tutti i giorni fino a dopo Natale, quindi non vi faccio gli auguri, ve li farò ancora nei prossimi giorni. A presto. Siccome non sai mai scegliere tra PES e FIFA, allora quest'anno no, PES FIFA 2021. Ma io posso anche giocare a basket. Sì, LeBron James è messo in attacco. A golf. Wow, è bellissimo, in ragazzi. In realtà è Photoshop, non esiste niente. E infatti FIFA 14. Non c'è soldi.